vendita. Certo. Forse c'è una svolta di di birra di vino mi devo vincere Coca-Cola. Ho capito, è meglio? Quella di Coca-Cola. Lo so. Coca-Cola diciamo. Coca-Cola, sì. Ma allora tu arrivo. Buonasera. C'era lì. Buonasera lì. Io al parcheggio. Tutto bene? Ma pallone, e tu vedi? Tutto bene, grazie. Comunque sentivo da lontano, eh. È meglio una bronza a vino o a birra che a Coca-Cola. E perché infatti la Coca-Cola fa malissimo. Io torno subito e ciao a tu e sto ciao. Zappa. Ma zappa. Fa malissimo, se tu lo leggi c'è tanto di quello zucchero che tu non avverti perché ci mettono l'acido ascorbico, che anche la sensazione dello zucchero, se tu prendi lo stesso quantità di zucchero e lo metti nell'acqua e cerchi di berlo è stucchevole e non riesci a farlo. Tu immaginati che ogni lattina da 333 di Coca-Cola ci sono 35 grammi di zucchero, io un bel. Sono messi. Sono una serie di cose e non ultima questa cosa, l'ingrediente segreto che loro non hanno mai detto che cos'è realmente. E infatti c'era stavo seguendo un dibattito dalla Coca-Cola e infatti ne stavano parlando proprio del fatto che la Coca-Cola facesse male, capito? Però non hanno mai detto l'ingrediente che mettono in più, in aggiuntivo diciamo, non l'hanno mai detto, comunque fa molto molto male. Perché l'acido utilizzato è spesso acido citrico, quello della bevanda che era male, l'acido citrico è l'acido il succo di limone, ma per la bevanda come la Coca-Cola o la Pepsi-Cola si usa l'acido fosforico, che è un acido che molti di noi ha già assaggiato in un laboratorio dentistico dove viene spruzzato sui denti per irrorbidire la superficie dentale al fine di favorire l'adesione dei materiali usati nel restauro. Tant'è vero che se tu tieni la Coca-Cola in bocca e ci fai i gargarismi, dopo un po' ti senti i denti ruvidi come se ti avessi tolto una parte di smalto. È vero. Sì, volete le notte. Tutto fa male a tu, Coca-Cola, succo di frutta, l'acqua, quello, tutto fa male, tanto. Siamo di passaggio, c'è gente che ne approfitta sulle bevande, vedi, sui superalcolici. E ancora vedi qui su Bardì. Tutto fa male, tutto il fritto, tutto. Non è così che non fa male. Anche tromba come fa male anche tu. Tu hai perfettamente ragione, ma infatti è la quantità della cosa che fa male, sicuramente. Anche a presupposto che se c'è una cosa che cos'è l'unica cosa sicura di questa vita. Lo so, La morte. Tu ricordati che l'unica cosa sicura della vita è la morte. Morte certa, ora incerta. Cioè, purtroppo siamo di passaggio e certo, ce ne approfitti, ma io preferisco bermi due latte di Coca-Cola più che bermi 3, 4, 5, 6 avanti di Saronno. Quello hai ragione, che non posso stare facendo, però ti sto dicendo piuttosto che un doppino di Coca-Cola beviti un doppino di cose di birra. Se mi faccio un bel mirtio perché c'è un pochettino, lo finisco, ci butto la bottiglia e poi basta, non devo più. Basta. Che cosa? Mirto rosso. Ma di rosso. Tu devi assaggiare quello che ho fatto io, che non ho fatto un bel poco. Mi ha detto la ricetta di Vulcano, era una bomba è uscita. E così, troppo, vabbè che tutto il sistema che fa male, cioè beh, ma è roba genuina, non ce n'è più, tutto fa male. Ma c'è qualcosa che fa più male, qualcosa meno male. Capito, però la Coca-Cola è per carità, è una proprio molto buona, attenzione, davvero anch'io, come dice Luca, meno male, se elimini tutto quello che ti fa male era un limite. Però questa è una Coca-Cola davvero deleteria, capito? Sì, purtroppo così. Troppo così. E... No, c'è molta gente che ne approfitta a versare grande quantità di ciò. Ma sono americani, infatti siamo quasi tutti contro i non acirosi, ma come si dice quando c'è i buchi nello stomaco. Sì, la gastroenterite. No, ma glielo sono. Capito. Poi quando mi piace a me, anche nel pasto per digerire, allora va bene. Sì, un po' sì, lo puoi vedere, ma io ho notato che una volta addirittura la Coca-Cola la usavano molto spesso e volentieri anche a frittare delle vite allucinose, mi metti la Coca-Cola e devi fare la svita. Ah, ma di rosso, non te lo volevo dire, io la utilizzavo quando avevamo una barca per pulire l'albero d'alluminio, ma non sai, le antenne, lo stesso come le fa lucide, prende un traccetto, ci mette un po' di Coca-Cola, la passi su e alla grande. Ah, ma ne avete mai provato a metterla su pigello come te lo fa lucido? Va bene, sì, che se c'è qualcuno a cui piace la Coca-Cola, sì. Questa ci voleva, eh. Buonasera circolare. Ciao a tutti. Abbiamo andato adesso il grado di cultura della radio oggi. Aiutai, con la Coca-Cola fa male, colpo fa male, capiti? Ma come hai detto cosa? Vivi una volta solo, vivi, anche un po' di droga non fa male. Cioè fa male, ma adesso mi drogo pure. C'è andata a casa di Fabrizio, no? Non bevete mai Coca-Cola, perché non so da che cosa ci si piace a quattro, Sandro. Guarda che io Coca-Cola è difficile che ne beppo, ma molto difficile. Il whisky sì. La mazza sì, la Coca-Cola è più difficile. Dai, buonasera, ciao Prode, ciao Fabrizio e Fabietto, okay, ero qua in Corinthians. Ad una cultura. Io e Fabrizio. Dai, io già vi seguo, mi manca il pedale per parlare, io inizio la volta lavorando, sono sul pedale. È male, voglia, se mi pedalo. Dico perché? Sembriamo in due, e cioè siamo in due dentro, tutti orecchie veloce. No, le prime cose che imparate ne frequentano, che sembra sempre che sei da solo. Come mai anche adesso c'è? Quanto meno ci sarà. Gio Maria che sta guardando la televisione, con un occhio alla televisione e un orecchio alla radio. Adesso lo chiamo Gio Maria, ci sei? Gio Maria. Una voglia di rispondere, ma c'è. E poi tutti quelli che sono in quel RX, compreso lo Sparviero lì che adesso sta mangiando in fretta però per cercare di venire alla radio. Ciao Genna, ben sentito Genna. Ma tu senti solo a me, mi sa tanto, io sono in ascolto che sto provando a riparare una radio, quindi forse anche a Falchetto che ti rilancio, dai, tutto a posto Genna. SMD, l'ultima volta, la prossima volta te la spedisco, non è possibile, cazzo, è possibile, è una cosa impossibile, non se può fare, non se può fare. Perché cazzo è tutta pizza sopra e pizza sotto, non riesci a seguire, per seguirlo cioè, e poi si viene, non trovi i componenti SMD, non trovi niente, è un'impresa, non è possibile, ecco, adesso perché ho trovato un esempio, che ho trovato su un transistorino che non mi dà l'attenzione che mi deve dare, adesso ci lavoro intorno, magari trovo la resistenzina, qualcosa che gli è partito, boh, e magari è quel componentino, dove lo trovi per sostituirlo, capito? Un casino. Vabbè dai, ti vuoi ti rilancio a Falchetto e passi in ascolto, Se mi cuppia lui, no? Attenzione Gennaro, attenzione Gennariello. Aspetta che proviamo un po'. Attenzione Gennaro, se vai ascoltando la città di Porto Torres. Bravo, sì. Gennaro! Allora, ci ha detto contrario, perché ha abbassato tutto che c'è temporale venerdì e quindi le antenne tutte basse, quindi non le posso levare. Sì, ci sono allerta per venerdì e sabato. Santiago 9, Radio 5. Nei contatti già c'erano, eh vabbè, quello lì un po' tutta la radio a seconda mano, io come faccio quel lavoro lì, come arrivo alla casa e trovo il computer che le pulisco tutti. Basta fare così, a metterci quello spettro contatti qua e risolvi tutto. Ma questa allora completa, nel 96 e 97 è morto. Nuovo, nuovo, poi ho messo la scatola, non essere, hanno conservato tutto. Anche lineare nuovo, nuovo, l'aveva comprato lo stesso anno, poi nel 97 è morto. Ascolta, riprendo io una fila che sto facendo, però dimmi una cosa, un braccio di ferro, quello che aveva malato malattia mediterranea. Ehi, è positivo. Ah, ti avevo conosciuto, ci trattavo bene, avevo domato anche il sangue per lui, poverino, infatti mi chiedevo sempre chissà che fine ha fatto, non ho più visto questo ragazzo, poverino. 97 è morto Fabri, avevo comprato questa radio, questo amplificatore, l'M300, ci ho detto, ma si stava l'M300 già, fa paura, ah, ce l'ho cambiato la connessione, però, ma già gli rimetto com'era. Allora, l'adattatore, capito? Perché c'è l'attacco a 6 nella radio e poi c'è l'adattatore a 4. Per attaccare c'è l'altra, l'ho cambiato, quindi dovevo ricambiare. L'ho fatto sentire a Luca stasera, con le 300. Ma buon buon. Lei, quindi l'hai conosciuto Fabio? Sì, perché era delle parti di sorte, nelle campagne, io quest'anno trattavo la stazione, c'avevo lì, nel 97 già non movivo più, ci trattavo bene anche, avevo donato anche il sangue per lui, mi sembra, cioè, poi mi chiedevo sempre chi l'aveva fatto, poi io non ho saputo niente, giustamente non avevo chiuso tutto quanto, ho capito adesso, poverino, era giovane. Sei Fabri che ti stanno chiamando. Dice che in quel rix Fabrizio mi sta facendo cosa? Da me, non mi sento. Attenzione, Gennaro, dove mi sento? Certo, sì, io sollevo più di un batto e mezzo mi sento. Devo tenere un batto e mezzo oggi. Due che a Fabrizio siamo a 200 metri e arrivano per 20. A te mi daremo un ufi. Comincia me. Ma mia cazzo, non mi viene la voglia di... Come mi arrivi, non vedi? Fate un conto. Sì, me devo ridurre così, cazzo. Con picchi positivi, oltre tu. Chi è? Chi era lui? Era? Oh, Sandro, chi è Sandro? Tu sì. Ma non so se mi arriva mai qua. Quanto io sto arrivando a te lì. Sono qua, non altro che fa io. E lei si avanti. Buonasera. Buonasera Claudio. Metti giù. È un gioco. È un gioco. E Antonio sono. Antonio Pomo lo sono. Vabbè tu. Mi ha un fatto e mezzo, sto uscendo, se mi ascolti, capite? Se mi ascolti non posso fare diversamente. Ma se non ascolto caro sparviero ti devo buttare tutto. Ok, te, come ti piace di modulare, io non lo gioco, boh. Come ti devo avere sparviata? E così è così. Oh, io, povero, ma... Ma mamma così manco, Ma rompi palle, cazzo, rompi palle. Lo chiama il microfono. Salenta. No, ma mi piace, mi piace. Salenta con Galaxy, quello non viene a prendere, se allora l'ho attaccato, a farlo andare. Salenta con Galaxy Uranus. Ma mi carpa molto, Claudio. Quella modulazione. Anche il VIP è molto simpatico, eh. Sì, vabbè, mi piace con tutti. Ma a me piace. Ma che ascolto male faceva il VIP? L'ho tolto dalla radio e ho lasciato quello del microfono. Ma a me piace la verità. A me non è qualcosa di diverso. Ehi, vabbè, ma conosci in cuffia da fastidio, capito? Mi hai fatto bene a dirlo, l'ho tolto. Ma, non sapevo non te l'avrei detto. vabbè, da fastidio. No, ma guarda, questo è il quarto microfono che collego a questo, senza cambiarli perché c'era da fattore, a questa radio, ma non ce n'è uno che non va bene, anche il Tarle più 2 va bene, con gli altri radio metallica era una versione, con questa è favolosa, veramente. Palazzi quello, chiappa, però pure qualcosa di diverso, anche il bip mi piace, a me non mi dà nessun fastidio, chiappa, ok, fai riprendere Claudio. Sì, avanti, avanti. Ehi, qua sono. Andare. E comunque, stasera mi sono buffato un bel duio, un bel giretto, sembrava fredda la giornata, invece al sole si stava bene. È morto? Capo. Qua era, però stamattina all'Urvi, che sono una tempesta, acqua, vento, giusto qua, c'è come stare da uccidermi. Raga, però andando verso Platamona, quella zona lì, per trovi, non ce n'era freddo, ci stava bene. Allora lo attivo, va bene, torno subito. Nessuno? Avanti. Beh, già. Poi Luca, vabbè. Io mi sto rilassando adesso, va, sono tutto il giorno in giro. Mi sono mangiato 3 pizzette di polli, Io ieri 2. Molte volte è buono, dai, c'erano belle piene, molte volte secondo non sono vuote dentro, non c'è la mozzarella in quantità, diciamo, anche c'è la mozzarella non vuota. No, a me mi dà sempre belle piene. Talvolta ne ho comprate anche 10 l'altro giorno. Casa, c'era gente e ci abbiamo comprato le pizzette. No, erano buone, croccanti e non sai cos'è, me le devi mangiare lì, perché se le porti a casa perdono un po', perché essendo in vuote il vapore acqua le fa diventare buone. No, erano buone già, buone. E non le fa buone, le fa pagare perché le fa pagare, però le fa buone. Io le buono bene. Ma quello che le fa il pizzaiolo, quello romano, come mai è qua il cugino? Non lo so, non ne ho idea. E poi è venuto un altro, se sono romano l'altro giorno, a salutarlo, e poi già, e parlava romano lo stesso. Ma c'è da un bel quello di me. Da un bel po', però signor Giovanni è al massimo, facciamo le pizzette, adesso non hanno quel sapore che aveva prima, sono buone ma non come erano prima. Ma non è così anziano, io me lo ricordo a lui, ma non è così anziano. Metto già, scusa. Signor Giovanni non è così anziano. Purtroppo è stato, non sa bene di salute, capito? Ah, ecco, quello è magari. Perché non era vecchio, là. Io me lo ricordo, era abbastanza giovanile. E vabbè, adesso c'è la figlia, ereditata. E vabbè, comunque, va bene lo stesso, dai. Avevo fame, a parte io da un po' che non mangiavo pizza, da un bel pezzo, perché io se mi fisso sto sempre mangiando pizza, poi alla fine fa male. Comunque da un po' di tempo non le mangiavo già. Se me ne mangiavo 4 alla una. Però fa male, dai. Aspetta, arrivo subito, vado a tirare la cucina capicola e sto arrivando. Comunque sono belle croccanti, a me mi piace un bel. Non ti piace il croccante? Croccante, sì. E la pizzeria sta parlando, la pizzeria che c'è per Grazia Deletta, quella super, non quella giù. Ma chi? Pudding, quello lì le fa buone le pizze, le fa belle croccanti con un bel di mozzarella, ma buone però. Ci faccio sapere aggiungere l'origa. Ah, ho capito. Ma quelli sono buone le pizze da Pudding, che stai dicendo? Pudiche. A Pudiche da Indice. Pudiche, Pudiche. Oh, buon pomeriggio, che prendi? No, ma... no, se mi sente, mi prendo anche da un'altra parte, sono buonissimo, sono. Io vado da Vittoria via Tempio. Io le prendo sempre lì, però nella pizzeria più giù, vicino a noi, vicino al Marrese. Ah, ho capito. Da Danilo le prendo lì. Vieni anche lì, già sono buono, già funziona la cosa. Fate sempre meno sciocco, eh? Capito dove è? Da Roggia, da quello di via Catarocchino. No, non va, no. C'è la pizzeria di via Tempio sempre. Però è vicino al Marrelli, hai capito? Sì, dove... Mi chiude il tabacchino, c'è il tabacchino lì. Hai capito? C'è una pizzeria, non so se l'hai mai vista, si chiama la gatta al girasole, lì le prendo. Prendi il taglio, e sono buone. Oh, non lo so. No. Oh, mi sembra che non lo lasciamo mai andato. E tu c'è anche solo lì da Poti che vai? O anche via Pascoli? No, io lo prendo solitamente di quell'Altaglio. Quell'Altaglio lo prendo lì o in via Rosello, qualche volta quando magari va a fare la spesa con mia moglie, in via Rosello ce la prendiamo. E poi dove capita, anche a Città Mercato, però fa uno schifo. A Città Mercato non mi piace proprio nulla. Ma non l'ho mai comprato neanche la via lì, fa uno schifo veramente. Ma non c'era anche Antonio Grotte, altro Fabrizio, metti un vato in mezzo, fabbrica, sta qua c'è tutto, poi metti, ma usa la antenna piccola, eh. No, che va bene così, e il pittino va a ragione il brutto, e si abbassa. Abbassa tutto, metti a 5 watt, 3 watt, siamo vicini, ma con fracassa e vale. Viene male adesso, c'è tutto un casino qua. Tu vabbè, abbassa il tuo microfono. Che non male, lo stesso sono 4.40. E via. Beh, non metti a 5 watt, è importante molto, 3 watt. Non voglio accedere ai picchi. Così sono a 2 watt, claro, non mi ascolto. No, ma... Guarda, c'è un trifo. 9.10. Vabbè, io sono 1.5. 1.5, ma così muovo lo strumento, brutto. Come non so succedere che mi arriva a vita? Allora siamo locali, stanno manco una settimana di giù, ne ci sono altre robe qua. Già va bene così, lisci lisci. Non è la moto dell'Evaria, ma Giorgino l'hai regato, no? Sandro! E voglia, dimmi già. Mi ascolti a parlato secondo l'arrivo? Ascolto tutti io. Bene, bene, come sta arrivando con 2 watt? Ehi, questo è un po' secco, già. Questo è un po' secco. Fai un passaggio. Guarda, vedete. Qua mi segna 7 a picchi di 8. Ehi, già può andare bene allora. Io sono ancora più basso sicuramente. Se quello è il gemello, altre prove a secco, che, mamma mia, ringrazio. Perché è tanto secco con baracchino. Andiamo addosso a Santiago 5. Tu sei Santiago 5, a picchi di 7-8. Questo baracchino c'ha molti picchi già. Santiago 5 a picchi di 8. Ma c'è. Un bel picchio già. E la radio bella sa. No, va bene. Si sente che. Amplificata, dai. Aspetta che abbasso. Ok. Ok. E da parte mia picchi ce ne sono? Sì, ma voglia. Questo è il Saletta. Senti i pippi. Picchi, Cardellini e anche Canali. E ripetiso. Ok, dai. Va bene, no, questo è raro, questo come Svizzera è raro. poi per il resto, già pronta. Già va bene. No, lo so anche io, ragazzi, non c'entra a fare host. Non mi ricordo la cosa, ma ho provato tutti i microfoni, tranne più 2, più 3, Scialetta, MS100, M300. Adesso mi l'ha cedito Luca con M300 una bomba. Ma forte, senza sollevare neanche molto l'eco, per non bene un filino. Luca, la modulazione che è forte, capito? Invece la radio. Ok. Gas, mettili tutti i microfoni che vuoi, li accetta benissimo, capito? Li accetta tutti, li accetta. Sì, io ce li ho questi microfoni, se li ho provati tutti già va bene. Ma non li prendi, vai da Sandro. Ma buonasera Sandro, a me intendi? Ciao Popolito. Piccolino, ma già ti ascolto. Caffa, con 4 watt sono, vuoi fare anche io normale. Caffa, se volete sentirsi, pure a posto d'ora arrivo. Caffa, Claudio? Eccoci. Sì, sono anche a posto d'ora ti arrivo. Perché non devi arrivare, cioè va bene. Va, Sandro, avanti. Ok, allora, aspetta un attimo. Ok, Claudio, mi ascolti? Ehi, ja. Guarda, ma sai cos'hai, un microfono? E cos'è, Sciarenta? No, l'altro nero. Quello nero, te lo chiede? Questo è Sideric, sul Dallas. Anche lui è così, però sono parecchi buoni. Adesso siamo con tre galaxy, sì, va bene, no, questo non so se tu l'hai mai visto, ma io quando l'ho visto mi sembrava, mi è toccato, non messo un presidente Lincoln nella scatola del galaxy, invece è proprio un galaxy, Uranus. Molto bello, veramente. Poi adesso c'è un menù allucinante. Non ne ha di frequenza, mi questo. Come ci avete voi, A, B, C, D, non ne hanno. Tutto la manopola fa. C'è la manopola sul lato, a fianco alla tastiera, e parte da 24, qualcosa, 32 MHz. La imposti manualmente, digitando sopra i tasti. Le sentite? Sì, siamo no, come 140, non semicontinuo. Ok, dai, vediamo un attimino. Adesso sono a 48, dai. Vedi, con 48 non ci ho i picchi che mi dà sul Galas. Va bene, modula così che va bene, si sente a un'opera per Radio 5, molto più bella del Galaxy, molto più bella, forte, amplificata, chiarissima, bassa, c'ha tutto uscì, hai capito già, non è di ABC nulla, c'è una manopola come 140, così, più piccola, capito? E cambia automaticamente il frequenzimetro, tu ce l'ho anche io il Galaxy. Anche tu ce l'hai il Galaxy, ma allora non è questo? No, un telefonino. Ah, ho capito. Hai capito già quello che ho detto? KK. Io non lo conoscevo, non l'avevo mai visto. Mai visto. Cosa fai? Le impostito? Oh, la manopola gira automaticamente le frequenze metronormate, come la sintonia continua, mi. Capito, mi hai? Appa. Poi, se vuoi andare nel WFU memorie, è un semi continuo, chiamatelo una volta, però. Non è di canale, capito? C'è la manopola e tu giri sempre, tu vai sempre avanti. Poi, c'è la WFU memorie, tu vai su WFU memorie e vai allora col canalizzato, tipo 140, dove c'è, ti ricordi? Non so se ti ricordi. C'è il WFU canale e il WFU la sintonia continua, così è questo. Ma hai capito? Ci va bene dal telefono. No, ti sto ascoltando, ma mai fai ciò? Ti sto ascoltando, questo. Sto parlando con te, che sono qua a vedere. Ma poi c'è un perfetto, tu mi hai capito, ho detto sì, proprio, hai capito. Se non me ne rispondi, per farti capire come fatti io non l'avevo mai visto, capito, non so, boh. È particolare sta radio, è tipo un sintonia continua, però non è sintonia continua perché c'ha solo le bande GB, cioè c'ha gli 11-11 metri, capito? Che poi non è neanche vero perché 24 sei già in 18 metri, quindi c'ha 15-18, 11-10 metri. Dove basta? Ehi, ho provato i 10 metri in banda laterale, lo 231. Allora? Sono anche il microfono? No. Ho fatto l'Antonio, ma ogni tanto cambia l'aria. Cosa hai comprato adesso? Tora, se ti dico qualcosa non ti metti a ridere. Un baracchino. No, quindi. Ah, arrivavo 9.20, 9.30. No. E baracchini che vanno 10 metri. Ehi, questo rulla forte, però me. Perché c'ha 50 watt, capito? C'ha 50 watt in banda laterale. Quindi lo tengo a 10 watt e uso l'amplificatore. Gli attira poco, dici. Mamma di dolci. FM, come stai facendo radio? Cosa? Questo in FM, com'è quella radio? Che funziona bene anche in FM, va benissimo. E quindi ti hanno fatto dei complimenti, ti hanno fatto. Ehi, complimenti io non l'avevo fatto. No, ma quella ti ricorda della mia modulazione, che sapete com'è, no? Adesso questo è un semplice microfono che però funziona molto bene anche questo. Ma è la timbrica che è spaventosa, capito? Se lo senti nel FM guai. Ma ti vuole poco mi ha sentito nel FM. No, non ho problemi, io ne sono comuto là. Ma è chi c'è il pulsante? Hola. Senti qua l'FM, cambio. E quando una modulazione? Yes, chi c'è? Lo senti in FM come schirreggia? Ah? Lo senti come schirreggia? Sì, è già, davvero. È il 48 in FM, come va? Va bene anche tu. Senti questo come schirreggia in FM. Maria, buonissima la modulazione, bella modulazione proprio, Calma, Sandro, mi ascolti a me? Ehi, già riesco a tirarti fuori, dai. Ma io bene esco qua con questa radio. Benissimo. E Gianni doppio root, ci sei in FM? Gianni già dormito, caput. Gappa. Comunque bella radio, complimenti. Grazie, una bestia. bene va, bene va, credetemi, io quando dico che va bene una cosa, va bene. Questo è il miglior baracchino che io abbia mai avuto, ma non da collezione, se io lo uso è perché mi trovo bene, è mondiale, sembra una ricezione favolosa, va, veramente, e a livello proprio di una HS in miniatura, molto molto bello. Molto bello esteticamente e funzionante, funziona che è una bomba. Non la voleva fare nessuno. E mai infatti non lo voleva nessuno io. Anche perché è un pezzo raro, non lo trovi tutti i giorni, no? Il Galaxy in FM. Eia. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50. Molto a Sorso, da Vannino, da Franco, da Antonio Giuseppe, quindi poi si è successo un mezzo bisticcio tra, insomma, Pietro si è un po' staccato e comunque io ci sentivamo spesso e quindi per il momento mi rimane una cosa affettiva, mi fa piacere averla anche perché funziona bene. Meglio di così non si può uscire, credetemi, è una ricezione favolosa, una trasmissione con tutti i microfoni, è una favola. Se l'intende in banda laterale è ancora peggio. Guarda, io non so neanche come sto uscendo nel FM, posso. Comunque è allucinante, la radio micidiale, mi si poco di eco, è una radio micidiale, classe. Se la senti in banda laterale ti viene da piangere. L'ho provato in 10 metri con l'amplificatore attaccato, ma ho detto, ma cosa stai usando? Io cosa sto usando? Un baracchino. Guarda, è spettacolare qua. Guarda, è spettacolare, la radio esce bene, bene, bene, chiara, chiara, allucinante. In AM non se ne parla, anche in FM esce bene. Ascolta, quando l'ho trovata Roberto, quello che veniva sempre lì, sotto casa tua. Salutami a Claudio, non l'ho più visto, sono 2 anni che non lo vedo più. Claudio si è ritirato, Claudio ha finito di giocare con il bar e per le strade. Casa, lavoro, lavoro e casa. Io questa tanto a me mi ha fatto tornare il sorriso perché mi metto a casa, mi metto a fare, stasera è passato anche a Vannino a trovarmi. Sono sempre in audio, vado in TV, tutto, faccio quello che mi piace. Sto di lusso, di lusso. Infatti vai anche, aspetta un attimino, aspetta, infatti vai anche alla Brittella, vai anche alla Brittella, va bene. Allora, la Brittella, tu la conosci questa radio, ma la gatta. Che belle gatte. Ah, cos'è coppa? Che belle gatto. Un baracchino male gatto. Bastardo, sì. Ok, dai. Comunque, mando laterale, non c'è nessuno che vuole provare, no? Ah, vi faccio sentire come scherreggia questa radio, Questo è spostato il baracchino, mi devo... E chi lo posso dare a Floria lineare? Riceve anche male in AM, ma in AM i segnali sporchi, te lo posso dare? Chi lo puoi dare? Non lo so, non lo so. Ci metto di balle, va. Poi vendi un risolto, ci metto 3 pizzette, voglio vedere una cacacola, ma ce la sono adesso. Lasciami preparo, va. Riprendi. Ma c'è altro un bombo, c'è altro. Ma ci sono io, Luca. Mi piace tanto anche a te. Ma lo smetti qua non sale proprio. Come va? Andava bene. Comunque va bene, Claudio. Ultima per la truppa. Aspetta, ecco. Io con la commissione... Basta là. Io? Io sto dicendo, con la commissione là, e beh... Dal telefono, aspetta. Perché non ti piace la FM? No, perché non vi ho dato il permesso. Positivo il capo. Che è il microfono? R100, che è introvabile. Fa. Sei in FM, oh, Luca. Vai, non lo so, non è roba mia. È introvabile, tu, è introvabile. È un signor microfono. Questo l'ha dato a tutti i baracchini. Comunque, guarda, se tu vai su internet e riesci a trovarlo, te lo fanno pagare, sa che sale. Ma mettila a zero, Luca, di ecco. Perché deve, in FM deve uscire normale, deve uscire. Ma bene mi senti tu? Ma io? Ah, mi senti bene tu? Positivo il caparroglio, va te, ciao Antonio Grotte. Ora ti scendalo. Eccolo qua. Ciao a tu, mi ascolti? A bomboletta ti ascolto, tu mi ascolti bene. Da fondo scala. Sentimi un attimino, ti devo chiedere un'informazione. Da tutto. Tu, me lo sai spiegare come si carica una bombola piccola da una bombola grande? Io già lo so come si carica, però te lo dovrei spiegare in verticale. Te lo dovrei far vedere proprio. Ci copri tutti due impari. Sì, ma è una sovramodulare quando sto parlando. Hai capito? Te lo dovrei fare vedere in verticale per capirlo. No. Di cosa? Non ho sovramodulato, quando te l'ho mollato io ho detto che così copiere tutti e due impari. Come copiaggia, te lo faccio io o non scoppia? Mamma mia, giochiamo con le cose, eh? Perché sto strappando? Ma sto strappando? Sto ascoltando una strappa questa cosa. Strappa? No, è appena, ma non li faccio nulla. Ma tu ci dobbiamo trovare in verticale, perché intanto qua non te lo spiego, perché è fattibile. Però te lo devo spiegare, perché mi devi sentire. Hai capito? Hai capito, dai. Ma è molto pericoloso, si può fare senza nessun problema. Già si può fare. Ma Roger. Titi. Non è che fa rubi. Ciao. Ti dobbiamo vedere, già si può fare. Ma ti dobbiamo vedere, per fartelo capire. Per spiegartelo bene, dai. Kappa. Ciao Antonio. Avvisa qua, ma se ti riguarda. Ah? Avvisa! Perché? Sei fatto assustare, cazzo! Ah, perché tu c'avevi il volume alto per Antonio. Ma questa gala si. Questo scherreggia, Sì, c'avevo le brittelle dentro le orecchie. Brittelle c'avevi? Vabbè, Antonio. Allora. Sempre col baracchino sono io, sempre col baracchino. Ma, tra l'altro, cioè, sono contento perché non si sente quella persona là. Non so manco dove le ferme lui. Ma lo chiama anche Gianni doppio rum, Gianni, ci sei. Oh, l'ho chiamato un sacco di volte, si è addormentato, cosa ne so qui? Gianni, no, ma strappo ogni tanto per caso, no? Ora, uno, due, tre, prova, ora. Attento, spariero, gala. Non strappi. Tutto a posto, tutto sotto controllo. Ma io in AM, dai, mi sono rotto le balle, dai, in AM, tutti in AM. Allora, tutti in AM, andava, dai. Diciamo che è più pulito, più tutto, diciamo che è più di balla. quarti solo e basta. Va bene, va bene. In terra, ah, su colore male a me. Allora, Claudio, aspetta, su rogerk.net, forse abbiamo trovato la modifica. Adesso leggo, aspetta. Te l'ho detto, bisogna cambiare due trimmer e pompare cosa male, ti fa l'effetto lento, un po' più lento. L'avevo fatto io, Antonio Falchetto. Dice, salve ragazzi, un microfono da tanti anni, è un piccolo problema, ecco, il microfono ha indistruttibile, il suo problema è che la durata dell'ecco breve, ti fa anche tu arabo guizzo. E c'è la foto del microfono, aspetta, vediamo un po'. Già vabbè, ma no, io sono un quarto e mezzo, perché se no sta sempre chiamando YouTube, che mi fa cacciare qua. Ah no, io ho diminuito di watt perché quando parlo mi vado a smettere del 39 con lo scala, capito? Ascolto tutti bene, l'ho girato stamattina per la questione dell'evento di venerdì, capito? Ho messo proprio la parte del messaggio le punte in modo da avere meno attrito. Mi manco, ha già passato tutte le antenne, tutti i grandi radiomatori hanno passato tutte le antenne, no? Domani giovedì vediamo, se domani sera inizia a salire il vento, stamattina c'era un po', poi non lo so. Sì, non sono riuscito a piazzare il palo nuovo io a Giuseppe stasera, perché cazzo c'era un vento e era molto pericoloso, allora l'ho tutta pulita bene e gli ho rimesso il paletto fine che c'era, non facevano, troppo maestrale c'era la parte sua e tirava la palla in terra. Allora ho mollato tutto e l'ho messa a com'era. Ma no, qua io sono salito su patto mio e fai una cazzata a salire, sono riparato, capito? E posso aggiustarmi benissimo. E il palo non è che sia alto, già è basso, ma no, e quindi ci sono i tre tiranti, la direttiva sotto che ha salita di 50 cm dal tetto, quindi le punte le ho puntate a notte, quindi se dovesse venire a mezzanale non lo piglia in pieno, se no me lo spacca in due, perché è fissa. Già ho sentito a volte, dice che era spaventato stasera, me l'ha fatto sentire Tonio Attila, diceva domani mattina ad appuntamento a quattro persone, era nella mano, era abbassare tutto. Allora che non sa più problemi, capito, con le antenne costano qualche soldi, se sono l'altra B costa 5.000 euro, ma cosa scherzare, a parte il danno economico, ma anche il danno poi a rimettere tutto a posto, a rifare, cioè c'è un sacco di lavoro, lì ci vuole agrumi, no, è cosa da buffonare, capito? Quindi è giusto che facciamo così, non me la fotti nulla, io posso abbassare di un paio di metri la manta, la mettere a livello di tetto, lasciata così, si ingaggi, se si faccia, me la compro nuova, se no non la metto più manta, la metto la superterra 24, ce l'ho nuova, anche la scatola in garage, non me la fotti tutta. La direttiva, ovviamente, l'ho già passata, È a zero, sono salito stasera, ho passato. Tanto il master lì da, è da un metro, quindi non le fa niente, non credo se non le faccia là. E basta, da trattenere la storia così, quelle filare lascia stare così, non le fa niente, non la fatti nulla. Però loro sono costretti a fare una cosa del genere perché hanno antenne troppo costose, capito? Crea troppi danni, troppi. Cazzo, mi ricordo, già nel dollaro si sta portando tutto, sono dovuto intervenire i vigili del fuoco, cazzo. Ok, già me lo ricordo, avevo aspettato il traliccio, era contentissimo e dopo mi pare manco un mese e mezzo mi è durato tutto quanto in terra e più che altro era lo spavento che ha preso perché dice per miracolo, dice non è caduto dal tetto, dice tutto quanto, è rimasto, dice tutto quanto sopra il tetto, però non è caduto nulla, lo spavento suo è costato quello. E in città un traliccio non va bene, in campagna va benissimo, se cade in campagna, se il terreno è tuo, cade lì e se la blocca in culo, ma quando c'è un traliccio sopra una palazzina, condominiale e faranno, sono veramente dolori, ma dolori però, capito? Non c'è cosa che tenga, poi già ti sopporti i condomini già, mamma mia. Già sbagliato però perché l'italiccio c'è andato, lì c'è andato un tubo da 4 pollici, 3 pollici, capito? 3 pollici ed era a posto, io se dovessi fare la loro genere che prima o poi mi decido a mettere una direttiva 10, 15, 20 con litri dei 40, non mi metto traliccio, metto un tubo zancato a muro con le zanche a U, direttamente senza tassilli però cementate, e metto un tubo da 3 pollici, 4 pollici con un materino piccolino, sono già in alto, cosa cazzo mi fa il traliccio a fare tutti il terzo? Però che è costretto, che è basso, per forza deve mettere traliccio, anche ma lì non c'è traliccio per esempio, e ha due traliccetti, però devi vedere come sono fatti, chi se non ingaggini manco si sta matti, capito? Vanno molto bene, bisogna farli bene i lavori, bisogna farli bene, no? A cazzo di cane, lui ha messo un traliccio tassellato con i tasselli da 16, ma si può poi con la pianta tassellata, con i piatti con i tasselli da 16, ma antennati. No, non va bene così, bisogna fare come hanno fatto al grattacielo dove c'è la radio, non mi ricordo come diavolo si chiama, che hanno abbattuto l'ultima parte di sopra, sono scesi fino al piano di sotto e l'hanno lasciato al ferro che c'è lì, che arriva la domani ya. E poi tutto quanto cimentato, ya, sono salito io a vedere come hanno fatto l'impianto, dimmi tutte quelle intralliccio lungo dove ci sono i dipoli, quello manco botto ne scende. C'ha la roba di 12 tirati, poi tassellato nel piano di sotto, poi intorno addirittura gli hanno fatto altri pali aranciati, e gli hanno fatto tutto quanto bene, non è che si sia fatto male, grazie a Dio c'è più di 20 anni con l'antenna, con il vento che ha fatto non è mai raggiunto tutta. C'è un ragazzo che non c'è radio, anche quello è così. E poi qui manco, non sono detto, non sono scesi alla c'era massarra, ho fatto un annino al lavoro, ho fatto il foro nel cemento, messi 13 dentro, poi gettato, catramato, tutto messo nel tegolo, tutti quelli toccano a terra e 13, capito, sono dentro proprio il cordolo di cemento armato, così si fanno i lavori, non la cazzo di cane. Luca, riprendi. Niente, tutto roba da leggere, modifiche, cambiare quello. Adesso, aspetta la signora, stavo in scarto. Vanna Sant'Antonio, niente, devo vedere un po', dai. Se riusciamo, facciamo la modifica, però la provo io, cioè il mio, questo qua. E poi se riusciamo facciamo il tuo qua. Adesso ti faccio sentire un altro microfono, va? Mentre stavo parlando ho cambiato il connettore l'adattatore. Allora, questa saletta, vabbè, c'è il BP staccato, se no sento in cuffia quando sacco il gas. Adesso ti faccio sentire un microfono vecchio, ma vecchio dell'SBA, e non so manco se funziona. Lo attacco nuovamente a questo cazzo di cavo, sono 6 microfoni che ho provato, e faccio sentire come esce, se esce, non lo so. Metto, sono qua. Io devo un po'. Allora, sai, voi dici, vabbè, io voglio un mirtino fresco, eh? Mettici, vabbè. Ma magari avresti avuto il circo. A questo l'avevi invitato da bere a tutti. Aio! Io a Claudio, martedì bianco, a me un mirtino rosso, a tutti voi già voi. È un bocchetto. Allora, questo è un SBA datato 1970. Certo, non mi dite che sta uscendo anche questo, perché mi vendo il keyboard. Cazzo, si scende, ma se tieni in varia. Esce. Cazzo, se esce. Intendo, pum, pum, cos'è il tuo rumore? Ma io? No, io con lo schiaccio portante sento in cuffie, pum. Prova. Ragazzi del PTT, là. Comunque esce bene, avvicinato, va buono. Quando le cose vanno bene, non c'è niente da fare. Quando la radio è buona, non c'è niente da fare, no. E così vi va. Perché l'Italia. Anche da te, pompo, va bene. Sì, che stai scendo bene. Sei perfetto di segnale anche di radio. Segnale non c'è tanto, la radio è perfetta. E beh, cos'è questo? Quello del telefono. Cava, cava. Claudio. Bene, va, Anto, sempre 4 watt, eh? No, questo. No, 2 watt e mezzo. Una bomba, va veramente bene, va bene però. Ah, questo è l'ultimo microfono, questo è l'SBA. Quindi ho provato il TAM più 2, il TAM più 3, l'M600, l'M300, il Salenta e l'SBA. Anzi, micidiale la radio, più nemo e più anda. No, vai tranquillo, quella lì è una radio buonissima, va veramente bene, va. Veramente bene. Anda via, anda via. Questo qua è il muro migliore, ti do che è molto. Sì, sono a 2 watt e mezzo. Dici che mettiamo a. Vediamo, chiami quello. A vedere se cambia, se la modulazione rimane la stessa. Guarda, vedete, la stessa rimane la modulazione. Come è, dai, è una bomba. Drugarie, la stessa modulazione rimane anche con tutta la potenza. Sì, va bene, va, è vicinante, va, troppo bene. Lasciate attiva, metto il pigiama. Li mettiamo 2 volte e mezzo, così non abbiamo problemi. Riprendi, Antonio. Mica, no, non vale a niente, non è stato né niente. È perfetta la situazione. Già va bene. E tanto per modulare città, una cosa, ragazzi, ce ne frega, siamo sempre tutti a manetta, tutti a... Va bene così, 4 watt, 2 watt e mezzo, io te la di... 3 watt, 3 watt. E su io con 4 watt, e non puoi uscire tu. Ehi, ehi, ehi. Allora io ce l'ho a metà adesso l'SBA, così fischia, così a manetta, troppo alta è la modulazione. No, va bene, io ti sento benissimo, sei vicino e non cambia niente. Non ho aumentato la amplificazione. Sì, ti ho aumentato. No, è l'attento, bene va. Una meraviglia, ha aumentato e non ha distorsioni né niente. Va veramente bene, va. Quanti watt sono, Claudio? Allora, i watt sono 3. Adesso sono messo a manetta il microfono. Tranquillamente. alla faccia della radio professionale. Vabbè, la radio professionale è sempre la radio professionale, però va bene, dai. Ma non hai sentito le ferme cose? Se la senti in banda laterale fa paura, ma ha paura davvero, fa paura, veramente fa paura, ma è micidiale. Sono poche radio così professionali che vanno bene, e poi quello lì penso che sia un pezzo raro, cioè che non ce ne siano molti, forse metto l'ultimo a Sacca. Boh, non lo so, questa l'ha comprata Pietro nel 96, nel 97 è morto, tanto è vero che l'ha usata pochissimo, l'ha usata pochissimo, capito? Cosa tu? Cazzo per la Juve? Un palo, una traversa, oh, cazzo non entra, è 1-1, non entra, Ai ai ai. Ho detto, deve essere stato proprio uno degli ultimi usciti dalla gala. Credo di 5 gli anni sì, credo di sì. Però lui si era sfruttato poco, infatti nuovo nuovo. Vabbè dai, non c'è problema. Antonio, riprendi. Cazzo, calcio rigore per l'Inter, mi salvate vice 10. Cazzo? L'Inter è 1-1 in casa col Siena, però c'è un calcio di rigore per l'Inter. Cazzo, Però se lo segna, lo segna, glielo para. Aspetta. Vengono montate queste cose in un terreno e si fa lo stadio. Già lo so, sì, già l'ho viste, però i problemi sono tanti. Sono tanti e non ci voleva questo, anche perché il Cagliari aveva necessità di un po' di serenità, deve rimontare tanti punti per poter avere l'accesso almeno in Europa League, invece ancora è molto lontano con questo problema che c'è. Le motivazioni anche dei giocatori non so, cioè sono a zero, capito? Stanno giocando così, tanto per giocare. Lo so, ma io so che sono partiti i lavori, sono partiti. La colpa non è tanto quanto il cellino, la colpa è del comune, che sono manica di pirla, che tu, come si chiama, lo sindaco è un pirrone. E tu puoi dare dove 3 milioni di euro, però chi tu dice cazzo, io fa giocare, almeno per giocare io in questo campo ne ho preso altrettanto, per renderlo un pochettino come si deve. Tu perché non me lo metti a posto, anzi con lui, il sindaco, la giunta comunale e cosa, perché siccome è un bene loro, avrebbero dovuto metterlo a posto. Proprio essere accessibile al 100%. Però se ci sono questi problemi, cioè, come la situazione, noi parliamo là di fuori, capito? Io so che sono partiti i lavori perché ci sono fatte proteste grosse contro comune cosa, contro la società, contro la squadra. Io so che sono partiti i lavori, almeno per renderlo normale, accettato e così. Hanno detto così, poi bisogna vedere com'è la situazione, è chiaro. Antonello Pomponio, sì. No, Pomponio, io so solo una cosa, che è una vergogna che qua in Sardegna ci sia solo a Cagliari, lo stadio Serie A. Forse non partite fuori, magari se ce l'avevamo avuto anche noi a Sassari, io sono convinto che la priorità era stata qua, era stata, perché avendo uno stadio della Serie A anche a Sassari, sono convinto che a posto di andarsene a Bologna e spendere, perché sono anche delle spese grandi, è preferibile prendere un pullman e venire qua a Sassari. No, a disputare una partita, invece neanche qua a Sassari c'è. È un casino, non è che è un casino. Quando si arriva a quei contenziosi così, non ne vuole più peli, la squadra non ha più quella forza che ha quando gioca in casa sua, è un altro discorso, i tifosi sono molto di più e adesso addirittura c'è una rivolta, gli abbonati vogliono indietro i soldi perché dice che loro hanno fatto l'abbonamento per vedere Cagliari in casa, capite? Tutte queste cose. Si sono creati casini per colpa di un pezzo di cazzo. Cellino avrà sbagliato perché ha sbagliato, però non è, il sindaco non era meno. Ma quel sindaco è appena arrivato e non sa manco di poter bere, un ragazzino, come si fa in una città, cioè la capitale a Sardegna, a dare mano a un ragazzino del genere, vabbè. La politica è anche strana in questo periodo, quindi cosa vuoi fare? C'è un po' di tutto, ma non si può fare questi cose, gas, ma tre bufunesi, è una città che ha bisogno di quella cosa, ha bisogno, perché quella cosa prima di tutto porta i soldi, perché vengono tante squadre da tanti posti, e così che porta il benessere, porta, perché vanno a mangiare nei ristoranti, vanno a mangiare, si alloggiano negli alberghi, e nella città portano i soldi, portano. Queste cose qua è bene che ci siano nella città perché portano i soldi. Perché questi qua poi vanno in giro, comprano dappertutto, già si sa. E beh, credo sia, è così. Purtroppo però c'è questo problema e quindi adesso vediamo vedere come lo risolvono, che è un bel casino. Ma un bel casino, va bene, va bene. Ma non c'è altro nessuno che sto canale. Tutti drumiti ci sono. Non pare. Adesso qua a Sassari abbiamo la Dinamo che sta andando bene, io non la seguo e cosa, però gli auguro tutto il bene, gli auguro, perché è una società che sta andando bene, sta facendo del bene. Io non la seguo, non è che ne capisca io di basket, però sono felice che ci sia una manifestazione così grossa che rappresenta Sassari e la Sardegna. Bel casino. Comunque per il Cagliari c'è da sapere bene come sono andate le cose, perché se c'è una rivolta del genere è chiaro che qualcosa è successo, Certo, sì, è una vergogna quella. Lodando, chi è che vuole entrare? Chi? Ci sei tutta fruscio, se io non più forte. No, ma ci vediamo. No, sei tutta fischi, e ti avevo ancora conosciuto. No, così non sei più a fischi, ma sei in basso del radio. Andando male? No, così è comprensibile, ma non c'è niente, no? Non c'è amplificazione, non c'è niente. Così cambia qualcosa? Ah, no, va bene, solo che la modulazione è normale. Anto lo senti Massimiliano? Ma già lo sento Massimiliano Bulldozer. Buonasera. Capo, ma parla del tuo grande passato. Ah, se ne gioco, se vuoi prendere il suo microfono. No, così voglio farci succedere. E così già stai migliorando, c'è l'ecco. Ti tu offro la vedantissima, guarda a vedere. Così è enorme. E così è enorme, cosa succede? Aperto e chiuso, lascialo in on. Quindi così lo devo lasciare. Schiaccio. C'è così va, lascia il microfono, va. Va. Sì, così va bene, però boh, tengo piano di farlo io. Tengo io, però boh, sì, non posso sollevare la mano così. E così? E così va bene. Così va bene. Sì, adesso lascialo così, quello pulsante che hai toccato va bene. Abbassa appena ecco, quello che hai messo on off, abbassalo un pochino. Guarda. Un pelino solleva. Io l'ho tolto. Sì, è perfetta. Ma la modulazione è buona così. È certo che è buona. Amplificata? Amplificata con un leggero reverbero, va bene. Subito fischia. Che mi è troppo bravo sotto. Ma voi lo senti adesso a Massimiliano? Lo sento sempre, lo sento. Ma ha migliorato adesso? Ah, proviamo in controllo, come com'è. Ma va bene, va dai. Non è la perfezione massima, però va bene. Gaffa, e ora ritrattete. Siamo cambiato a questo un'ala F22. Non lo so. E così è, dai. A fare il trombiente pare. Ah, ma si vede, io ti ascolto bene, sono col baracchino, ti ascolto bene, è chiaro che come Tantonio non è il massimo, comunque è abbastanza comprensibile, va bene. Se trovi una via di mezzo, perché c'è troppo rimbombante, troppo cattedrale. Ok, adesso c'è un singer questo coso, ma io vorrei registrato quel coso, quel trimmerino che c'è. Sicuramente sì. No, va buono, tu cacciavite, ho detto, va che cosa, bucani la va buono il vicino. Attenzione, Lucariello. Cosa? Ah, Guido, sei sempre matto, sì. E chi? Ma si vede la faccia, dai. Guarda a vedere, allora, così era come prima. Mi pare che mi sono guasta, è stato l'orazione. No, io sono sempre a 3 watt. No, ma va bene, dai, è che è un po' cattedrale mio, Massimiliano. Se potevi regolare era meglio. No, deve venire qua Fabrizio a prendere, gli ho già detto a Giuseppe, sta terminando la radio sua, poi viene a prendere lui qua, tanto mi deve fare un lavoretto a me. A capo, dai, io ho un problema. Aumentando, dimmi quando lo devo fermare, così al massimo. Questo lascia al massimo, non lascia un altro. Ma uno solo ne ha qua, poi c'ha, dove c'è il PTT c'ha il pulsantino dell'eco. Ecco, allora, adesso la preamplificazione senza eco va bene. Regola l'eco adesso, lascia l'inserito, non si può prendere la regolazione l'eco. Allora, adesso lo sto abbassando, vedi un po'. Ecco, così per me va bene, c'è un leggero fluppio, ecco, leggero, la modulazione è buona. Positiva, se lo tolgo del tutto, come rimane? Ecco, la modulazione adesso è chiara, bella, pulita, molto più forte di prima perché hai messo il trimmer al massimo. Cava, quindi lo posso chiudere così, aspetta, ecco, così al massimo. Niente. Posso chiuderlo così allora? Alla grande. Allora, io non posso aumentare perché sennò fluscia, dov'è? Così al massimo qua. Al limite del fischio, là. No, così al limite, com'è? Buona, così va bene. Cavaglia. Dai un secondo che chiudo. Tanto per te. Ma adesso va bene, finalmente. Cavaglia, guarda che ce l'ho tutto aperto in mano. Ti do in mano il servetto. Ma io non andare più in basso. Non fa gaffa. È una tuca a colpo. Ci perde 2 minuti per fare la regolazione e tutto va bene, dai. E lì si trattava di fare la regolazione del trimmerino interno e poi va bene così, non c'è problema. Montato l'altra. Cosa? Nella macchina? Ah. Il staff avevo montato in tour, se ti ho fatto. Perché l'altra volta non c'avevo la staffa e quindi la radio l'hai vista soprassedire, no? Adesso invece l'ho messo la staffa sul fianchettino e va bene alla grande. No, fai così, lo baracchino vuole andare a sedile e ho collegato e lo fai pure in cascione. No, ma l'ho messo nella smart, mi. La staffa l'ho messa nella smart. Ah, il simile è buona. E allora, Martino va nella smart. Capito? Nella smart. E la nuova furgonetta con la base magnetica metto il 440 sopra il sedile. Non me la futti. 440, 140. Ci viene le palle con quello di 50, boom. Ma al collegatore non vuoi buttare il cascione? E lui si butta. Cosa le fate? Stiamo vedendo dopo. E non lo vedo, roba mia, vero? Lo giubbotto netto. Caffa, tu vedi che quando te ne fai, viene pure un pulito. E si conferma. C'è nessuno anche alle 10, banda di morti, cadaveri, tromiti che... La gente si chiama a letto a quest'ora. Oi Fabri, mi fa Gennaro me, attento, abbaccia. Mamma mia, dovrebbe andare a letto adesso. Io sono mi contrevati. Baracchino è sempre uguale, mi sto usando un SBE. Stavo facendo un'altra prova, invece se va bene anche questo cazzo, non c'è un microfono, non va bene questo baracchino. Meglio vai, lascia che vada tutto bene. Mi prompo anche io, spengo e vado a letto, va, ero dentro, controllando le cose al PC. Vabbè, riposati. Oggi sei a riposo quindi? No, lavorato tanto e non mi sono coricato dopo 9 e mezzo e ho dormito poco, di domani mi devo alzare presto, devo fare un sacco, devo lavorare di sera, ma devo fare un sacco di roba da fare domani mattina e via. E so che sto mi controllando anche sempre qua e quindi faccendo, non riusciva a... No, non hai lavorato stanotte, hai lavorato di pomeriggio. No, stanotte. Devi andare a lavorare? No, ho smontato stamane. Ah, hai smontato stamattina, Stanotte di notte ho lavorato stanotte. E quindi hai smontato stamattina. Ehi, vai a riposarti, vai, tanto anche noi adesso. Sono già le 11, ma vado a nanna, tu tutte noghi. Anche io sotto la sera ho buttato qua dentro Fabrino e poi le pieme il solito vannino che dovevo darle i sudi delle MC80, ci abbiamo fatto due chiacchiere, mi ha controllato ancora il lineare, c'è anche un condensatore elettrolitico bucato, io manco accorto, come vedi, per quello ho detto passa, te lo faccio vedere anche a te, quattro occhi sono meglio di due, e ha trovato il condensatore elettrolitico bucato, scoppiato da 16 volts, 1000 microfarad. Ma è normale, il condensatore in generale quando le visioni li cambia. Io pensavo era solo questa resistenza, invece c'è anche un condensatore. Adesso bisogna staccarlo, domani pomeriggio mi metto e stacco anche quello, la resistenza l'avevo già staccata. Stacca anche quello lì e poi sabato mattina o venerdì perché devo uscire venerdì sera, vado in banca e passo la GBC, compro tutto così inizio a assemblare tutto e provare se funziona, capito? Ho capito, fa un po' di prove. Quello già sempre c'è da fare, ci sono quattro fesserie. Ah, accende la componente. E cosa tu? Un rotone, ha verato di cambiare componenti, la GPC. Sì, già è fornito su queste cose, se no vado a Mecchioni o vado a Fusaro, già ce li ha, sono dei condensatori elettrolitici abbastanza comuni, no? Anche quella resistenza, un altro bandino già si trovano, non è un problema, sono strozzato. parte roba da 5 euro, capito? È che devo, l'ho tutto fatto a pezzi perché rimangono sotto, devo dissaldare, quindi ho staccato tutta la piastra, tutte le cose, ma fortunatamente lì si vede bene, tutto grande, ho spostato un baracchino, avevo lasciato perdere lì, è proprio roba grossa, quindi si vede, mi viene bene lavorare. E quindi Fabri, anche questo microfono va bene a questo baracchino? Benissimo. Ma uccidate il orologio, per carità, e poi faccio vedere come ha fatto. Ok, va bene, andiamo a cenare allora, se te la andiamo avanti ci andiamo anche noi. Beh, dopo un po' io devo recuperare l'altra schiena, controllare un'altra tensione, per curiosità e prima di andare a letto. Va bene, dai. Ok, allora io vi saluto, momentaneamente mi allontano la radio, lascio tutto acceso qua. Nel caso ne avete voglia dopo, vabbè, ritenetevi tutti salutati, mi guardo un po' di TV, mi rilasso e ci sentiamo. Anto è tutto acceso qua, se non ti addormenti, ci sentiamo dopo, voglio staccarmi un po', mi fa male anche il culo. Mamma. Ancora un po' con il capo della protezione H. Davvero, ma c'è un motore che si attacca da Q. Ma non stare su contenuto qua. Al manco una mezz'oretta, due cattivi cattivi. Sì, è vero, infatti la poltrona ha giocato lo posso, vedi, la misura di lo Q. Che miseria, si è solo tutta la sera buttato qua dentro, che? Ma almeno una ventina di minuti, cioè quando è il giorno io consiglio magari di girtene e far pigliare un po', se no in chi vedrete guai. E domani se non piove amico, però chiamando il mio collega poi lo fa, già ne ho da fare, se non piove domani c'è una linea da due pollici da fare, una ventina di metri, quindi raccordare, fare, c'è l'impresa e già mi muovo. No, lavoro già mi muovo, anche troppo. Poi io avevo giocato 20 volte una gara a 4 metri in ferro, alla Tefara, per fare delle misurazioni, misure, prendi qui, prendi là, dammi quello, tira quello, vai, non va male a voi, ai travagli, e burro. Ma io devo cercare, io sono già un pochettino, devo cercare adesso qualche domenica, perché qua adesso non si può stare. Ma avanti sono portato, cazzo, sono portato per 3-4 ore, non che 3, insomma. Ma per la volta c'è 3-4 ore, non che 3, pure attaccata alla Caprea. No, non fa la verità, no. No, è che stamattina lui stava, come siamo arrivati stava piovendo, quindi abbiamo mollato tutto, se no anche lì c'avevo da fare, quindi domani mattina, se non piove, ci mettiamo a fare qualche cosettina con Gabriele, poi c'è anche l'impresa, perciò già mi muovo, durante il lavoro mi muovo, è che quando arrivo a casa sono stanco, non ne ho voglia, quindi me ne sto qua dentro buttato, capito, tutto qua. Va bene, dai, mi alzo un attimino e sempre ci sentiamo dopo. Ciao Fabri. Ciao, buonanotte. Ciao Fabri, ciao Claudio, dai, no, chiudo direttamente, dai. Sentiamo domani, ciao, caffè Fabri. Ciao. Ciao.